Con la guerra che incombe e con tutte le disgrazie che ci affliggono, non mi sarei mai sognato di affliggervi una volta di più con il mio punto di vista su quell'ometto rancoroso e vanesio che è il sindaco Albertini, se non mi fosse capitata sott'occhio una delle tante lettere che il primo cittadino o presunto tale ha ormai l'abitudine di mandare a raffica ai principali quotidiani in lode di se stesso. Una strana consuetudine a ben vedere, visto che non occorre essere un mago delle pubbliche relazioni per sapere, come dicevano i nostri maggiori, che chi si loda si imbroda, ma il primo cittadino in questione è fatto così. A lui le lodi piacciono e se non ne raccoglie abbastanza provvede ad aumentarne il numero di persona. È un modo come un altro per onorare la tradizione di fattiva operosità che caratterizza la nostra metropoli. Quanto alle critiche, naturalmente basta limitarsi a metterlo in conto alla malevolenza altrui. E così, intervenendo sulle pagine locali di Repubblica del mercoledì 22 in risposta a un innocuo pezzullo di Filippo Azzimonti, in cui si muoveva qualche legittima critica alla decisione di indire l'ormai celebre consultazione sul numero delle licenze dei taxi, il sindaco non mostrava di avere il minimo dubbio. Il 60% dei sì sui 23.000 voti espressi fino in quella data dimostravano positivamente di quanto consenso gli godesse tra i cittadini. Gli 8.000 no facevano pensare soprattutto a un'efficace manovra di lobby da parte dei taxisti, che è un modo di considerare i propri oppositori è in tutto degno di chi, esibendo i numeri in proprio favore, risolve il 40% di 23.000 in 8.000 e non nel 9.200 previsto dalla normale aritmetica, inducendo come minimo una certa curiosità su che fine possono aver fatto i 1.200 voti che mancano all'appello. Ma da un politico che ha avuto il coraggio di organizzarsi e gestirsi assolutamente in proprio, al di fuori di controlli e garanzie di qualsiasi genere, un referendum su se stesso, una pratica che renderebbe perplesso oggi il più lucido dittatore del quarto mondo, da un politico del genere non ci si può aspettare nulla di diverso. Sì, che ai risultati finali, resi noti ieri, che vedrebbero su 31.132 voti espressi il 65% a favore e il 35% contro, ci permetteremo semplicemente di non credere. Ammetterete comunque che queste cifre sono un po' scarsine, tanto in assoluto quanto in percentuale rispetto alla popolazione di Milano e della sua area metropolitana. E di fatto Azzimonti si era permesso di osservare come un'iniziativa del genere poco potesse coinvolgere i moltissimi milanesi che per motivi economici il taxi non se lo possono nemmeno sognare. Ma di costoro, evidentemente, pochissimo importa il pavone di Palazzo Marino. L'impiego del taxi, precisa Piccato, risponde comunque a dei criteri differenti da quelli che valgono per tram, autobus e metropolitana. E già, nell'80% dei casi, infatti, vengono utilizzati da persone che possono ottenere il rimborso della corsa. Interessante, no? Il taxi è roba da manager, da modelle, da giornalisti, da gente comunque che si muove con il piede in vista, e gli altri non c'entrano. Il discorso, già agghiacciante se espresso in questi termini, o ancora di più se ridotto in cifre, l'80% dei 50.000 utenti medi giornalieri dei taxi cittadini corrisponde a un depresso a 40.000 persone, ed è evidente che del parere dell'altro 1.140.000 circa di milanesi, meno fortunati, all'attuale amministrazione non potrebbe interessare di meno. Che è un'interessante dimostrazione, spontanea oltretutto, di quali siano i referenti sociali che stanno a cuore alla maggioranza che ci governa. Oggi che sindaco e governatore si sono messi d'accordo, come era facile prevedere, alla faccia dei tassisti, dei passeggeri e dei cittadini tutti, la polemica sui taxi è destinata a cadere nel dimenticatoio. Ora che le licenze sono state aumentate, vedrete che i tassisti si placheranno presto tardi con un bel aumento delle tariffe che tanto poi gli utenti si fanno rimborsare se possono. Ma di questa dimostrazione di disinteresse per la maggioranza assoluta dei cittadini e dei lavoratori, di questo implicito invito a tacere e a prendere il tram, o come si diceva una volta, ad attaccarsi al medesimo, varrà, mi auguro, la pena di ricordarsi.